Tempi Rock di B-Radio. E che funzione aveva l'ironia all'epoca, l'epoca del beat? Visto che questo è un pezzo abbastanza ironico, divertente, però con un bel testo. L'ironia la trovi anche un nostro brano che si chiamava La ballata del bambino grasso. Perfetto. Che è un'ironia grottesca, perché purtroppo il bambino grasso alla fine della canzone muore addirittura per inseguire la fidanzata che scappa con uno magro. Interessante questo. E la vita di un disco secondo te, Franco, quando era? La vita musica, cioè uno, due, tre mesi o qualcosa di più? No, secondo me durava di più. Di più. Perché quando tu facevi il pezzo che funzionava, tipo noi avevamo Il mio dolore, non so, o Stasera sono solo, eccetera, i gruppi la suonavano per anni suonavano il brano, cioè 2-3 anni, cosa del genere. Quindi e non erano degli evergreen i nostri brani. No, erano molto meno usegetta di adesso. Adesso ce ne sono molti usegetta, secondo me. Bene, allora finiamo questo piccolo omaggio a Franco con un altro pezzo. Franco, ce lo presenti chiaramente. Ecco, questo qua è un brano, è una cover che ho avuto la fortuna di fare, una cover degli Animals, che per me è un grande pezzo, We Got a Tavolo Displays. Ecco, in questo brano abbiamo veramente l'autore di testi, che è Sergio Bardotti.